tu lo sai che devi leggere i mercati, Deborah, invece impegnati. Che parlare di scaffali. Vedi che allora è giusto che io abbia sempre fame, perché guarda quanto lavoro. Vogliamo farmi mancare il nutraceutico. Dottor colesterolo, dottora Volete. Dottora Volete. Anche voi questa mattina capitate, come si dice, a fagiolo. A fagiolo, ecco. Cioè addirittura chi salta i pasti per risparmiare calorie. Questione per me incomprensibile. Giovanni, non ridere. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Oggi Nicoletta, cuore e denari in salsa western. Per un pugno di dollari. Sì, però non abbiamo invitato purtroppo Clint Eastwood, ma abbiamo altri signori ospiti quest'oggi. Quante cose possono succedere per un pugno di dollari, ma anche per un pugno di euro, di rubli o per un pugno di sterline. Insomma, come avrai capito e lo avranno fatto anche gli ascoltatori, in questa prima parte di Cuore e Denari parliamo di mercati valutari. Certo, noi compriamo, vendiamo, consumiamo in euro in Italia, ma pensiamo a tutti quegli imprenditori, per esempio, che esportano, per fortuna sono ancora molti, e tengono botta, come si suol dire, a dispetto della grave crisi economica nazionale. Ma anche noi come piccoli risparmiatori interessa lo scenario delle valute. Pensiamo per esempio a chi di noi, per fare un'adeguata diversificazione, investe sui mercati internazionali con prodotti finanziari dalla Cina al Giappone, dal Brasile agli Stati Uniti. E anche per questo motivo è importante, Nicoletta, seguire i movimenti delle valute, che sono decisamente in fermento. Allora, subito mano alla cornetta, 800 24 00 24, per commentare con noi, se lo vorrete, il crollo del rublo, il nervosismo della sterlina, la discesa dell'euro sul dollaro, e per farci le vostre domande se siete piccoli risparmiatori e sapete che parte del vostro investimento è legato proprio alle valute. E noi, Deborah, invece nella seconda parte del programma, quindi dalle 11.45, torniamo a grande richiesta a parlare di Helicobacter pylori, non solo per soddisfare le molte richieste che sono arrivate in redazione dopo la puntata di venerdì, ma anche e soprattutto per dovere di cronaca. I ricercatori dell'Università Cattolica Policlinico Gemelli hanno infatti scoperto un possibile meccanismo d'azione con cui il batterio che causa l'ulcera mette il cuore a rischio. Da qui l'importanza di scovarlo, si trova in 2 persone su 3, e di eradicarlo. 800 24 00 24 per dare la caccia al batterio. Sì. Il denaro non dorme mai. Ho appena fatto $800,000 con loro su Hong Kong. Li hanno telegrafati a te. Giocaci. Sei stato bravo, ma devi continuare a far bene. T'ho insegnato le regole del gioco. Ora il corso è finito. È proprio vero, il denaro non dorme mai, c'è sempre una borsa aperta e indipendentemente dai fusi orari le valute di tutto il mondo vengono scambiate. Questo è un tema caro agli economisti, perché anche dall'andamento del valore delle monete si qualifica la forza economica di un paese, tanto che quando un'economia è in difficoltà si cerca di attivare politiche monetarie espansive per indebolire le valute e farle circolare con più facilità. Questo per esempio era uno degli obiettivi di Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, quando 2 settimane fa ha abbassato i tassi di interesse in Europa, anche per tentare di svalutare l'euro sul dollaro e rendere la nostra moneta più competitiva. Ma non è solo questo il tema valutario più gettonato del momento. Partiamo per questo nostro viaggio di denari. Visto che stai facendo un po' la direttrice d'orchestra in questo momento. Mi diverto. La riconosci questa nostra prima certo, tappa? Sì? Certo, Deborah, sono preparata. Partiamo dalla Russia e quindi parliamo del rublo, che sta conquistando proprio le pagine dei quotidiani finanziari. È vero, c'è questa durissima crisi fra Russia e Ucraina e a causa di questa il rublo sta crollando su tutte le altre monete internazionali. Ma oggi parleremo nel corso della puntata anche dei grattacapi della regina Elisabetta II a causa... Sotto quei cappellini. Esatto, del referendum per l'indipendenza della Scozia in programma per giovedì 18 settembre, circostanza che sta facendo perdere colpi alla sterlina. Allora, per commentare tutto questo, la situazione del mercato delle divise, oggi con noi uno dei massimi esperti di questo tema, Angelo Drusiani, esperto appunto di mercato obbligazionario e valutario. Buongiorno e bentornato, Drusiani. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, andiamo subito alla situazione russa. Il rublo continua a perdere terreno e tocca nuovi minimi storici sia sull'euro che sul dollaro, sullo sfondo delle sanzioni occidentali a carico della Russia, che poi a sua volta ha decretato, lo ricorderete, l'embargo verso Europa e Stati Uniti. E quindi da oltre un mese nessun prodotto di queste economie transita sul territorio russo. Chiaramente questa è la circostanza che sta determinando la caduta verticale del rublo. Il dollaro ha superato per la prima volta nella storia i 38 rubli. Drusiani, le chiedo subito un commento: che significato diamo a questi livelli? Ovviamente il fatto che il rublo si sia così svalutato nei confronti dell'euro rende le esportazioni, se ancora fossero state possibili, molto più complesse nei confronti di quel paese, perché, come giustamente lei sottolineava poco fa, una debolezza di una moneta fa sì che questa moneta si espanda più verso l'estero, però che non importi dall'estero prodotti di paesi le cui monete hanno valori abbastanza alti. Non va dimenticato che oggi l'euro vale, per un euro ci vogliono 50 rubli. E anche quello è un livello top, vero? Il top è stato toccato, mi sembra, a metà marzo 51, quindi siamo molto vicini. Di conseguenza, di sicuro, al di là del fatto che c'è questo embargo, che quindi esportare in ogni caso non si può, indubbiamente di fronte a una svalutazione così di una moneta si fa molta fatica ad esportare verso quel paese, quindi giustamente il fatto della differenza di valore del cambio fa sì che i commerci diventino molto più difficili. Mm. Insomma, c'è anche l'altro lato, non della medaglia ma della moneta in questo modo. Esatto, no? Drusiani, è così effettivamente. Sì, sì, assolutamente sì, e purtroppo le persone ci pensano... Buona parte delle persone molto spesso non ci pensa al peso che può avere una moneta non solo nell'economia mondiale ma anche nei propri portafogli, perché poi si riflette tutto, perché se l'economia va male è chiaro che la moneta perde di valore, quindi sono le quotazioni e così via di quanto si ha in portafoglio, quindi la moneta ha un'importanza ancora assoluta. Allora, tra l'altro adesso sono un po' indecisa se tentare di fare un salvataggio in diretta a Nicoletta che si sta strozzando. Oppure vuoi finirmi definitivamente? Quella malata però ero io stamattina con l'ambrosia, sì. Oppure se ripristinare la telefonata con Drusiani, perché per la verità non lo stiamo sentendo in maniera ottimale. Per cui magari al volo chiedo a Carmelo e Marco, appunto, e Laura se possono fare questa operazione. Nel frattempo stavo un po' monitorando anche quello che stanno dicendo gli ascoltatori al 349-238-6666 o all'800-24-0024. Ci sono alcuni ascoltatori che per esempio si sono prenotati per intervenire sul tema della lira turca, anche questo un certo. Paese sotto i riflettori da molti anni, peraltro che non riesce ad entrare nell'Unione Europea. Parleremo poi naturalmente anche del rapporto di cambio fra euro-dollaro. Peraltro sai che il dollaro sta riprendendo tanto quota e sta schiacciando il prezzo delle materie prime che hanno dei valori che sono tornati all'estate di 5 anni fa, pensa, del 2009, per cui anche lì c'è un altro fermento. E ne parleremo nel corso della trasmissione, ma il nostro ospite, il dottor Drusiani, diceva molto spesso le persone non si rendono conto che le valute hanno un peso anche nella nostra vita quotidiana. Esattamente. No? Anche per il piccolo risparmiatore. Drusiani, lo abbiamo ripescato? Sì, sono qua. Sono qua. Ecco, mi, molto fa qualche, meglio. Mi fa qualche esempio, perché la donna di denari è super preparata, insomma. Mentre la donna di cuore ha bisogno di qualche informazione. Dove vado a toccare l'influenza, la ricaduta delle valute nella mia vita quotidiana? Nella vita quotidiana la ricaduta delle valute fa riferimento ad esempio alla difficoltà, alla crisi che ha in questo momento il nostro paese. Se l'euro ad esempio valesse molto meno rispetto al dollaro, rispetto anche ad altre monete, probabilmente le aziende esporterebbero molto di più di quello che esportano, quindi impiegherebbero più persone perché avrebbero una produzione molto superiore, di conseguenza può darsi che questa crisi sarebbe molto meno forte di quanto lo è adesso, quindi l'importanza della moneta è proprio quella che consenta ai produttori di operare in maniera molto più aggressiva, di vendere molti più prodotti di quanto venderebbero se la moneta è forte, come è accaduto fino ad oggi. Mm. Altro tema naturalmente sono anche i prodotti finanziari, i prodotti di investimento, drusiani, perché molto spesso noi diamo retta, e dico anche giustamente, a quel consulente che ci dice di diversificare su tutti i mercati internazionali in maniera adeguata il portafoglio, e poi magari, che ne so, il nostro piccolo risparmio ce lo abbiamo piazzato in Brasile, in Cina, in Giappone e quant'altro, e non abbiamo adeguatamente tenuto in considerazione di quanto il rendimento di questi prodotti si possa spostare in relazione proprio anche alle valute di riferimento di queste aree. Quindi che cosa dobbiamo sapere anche su questo? In primis bisogna fare una precisazione molto importante. Per investire in valute diverse dall'euro occorre avere una propensione al rischio molto alta. La stessa MiFID, che ovviamente è, che oggi è quella che guida gli investimenti delle persone in generale. È una direttiva europea che peraltro è in corso di revisione, sta uscendo, come dire, la versione 2 proprio in questo periodo. Sì, esattamente. Impone quindi delle regole molto ferree, per cui se una persona ha una propensione al rischio modesta difficilmente gli è consentito di comprare delle valute in maniera importante. Ricordo a questo proposito che nel 2003 il dollaro si svalutò nei confronti dell'euro del 23%, quindi ci si rende conto che le oscillazioni sono molto molto importanti. Infatti. Allora, sì, non ho fatto concludere. Fatto questa precisazione, l'investimento, la diversificazione a cui lei faceva riferimento è una scelta importantissima, in effetti. Allora, tra l'altro, mentre prima abbiamo ripristinato la sua telefonata, stavamo anche completando il discorso sul dublo, perché in realtà avevo anche questa curiosità, forse lei che ha un polso più diretto della situazione la può soddisfare, Drusiani, ma ci sono molti italiani che investono in prodotti finanziari espressi in rublo, in titoli di... La voglia di rischiare degli investitori è molto superiore a quello che ci si può aspettare. Quindi sono tantissimi gli investitori che comprano titoli a rischio, ma anche valute a rischio. Mm. Allora, 80024 intanto, 0024. Possiamo andare a Firenze? Sì, è già pronto un ascoltatore. Sì, è pronto Giovanni. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Benvenuto. Senta, io volevo delle informazioni riguardo a degli investimenti in valuta estera, obbligazioni BEI, comunità europea, quindi il rischio emittente dovrebbe essere molto basso, però enti sovranazionali, in valuta, sì. Però in valuta estera, in questo caso qui mi riferirei alla lira turca. Io diciamo ho tenuto un pochino sott'occhio questa situazione, volevo qualche informazione, visto che abbiamo parlato delle turbolenze della sterlina, del rublo legate a fattori interni, politici, eccetera. Cioè attualmente la questione turca, che anche quella è stata abbastanza travagliata. È un po' più trascurata, Giovanni, mi pare, almeno non guadagna le pagine dei quotidiani finanziari, come diceva prima Nicoletta, alla pari di queste altre situazioni. Allora, tra l'altro, ha dato anche delle informazioni importanti Giovanni Drusiani, perché ha detto: voglio investire in obbligazioni BEI, quindi Banca Europea degli Investimenti, se non mi ricordo male l'acronimo, enti sovranazionali, danno un po' più di sicurezza soluzione di investimento di questo tipo? Quando si fa un investimento in valuta estera sarebbe importante sicuramente evitare il rischio emittente, quindi comprando un titolo emesso dalla BEI che è considerato ancora oggi AAA, quindi il massimo grado di affidabilità, la scelta è già corretta. L'altro aspetto che secondo me andrebbe non sottovalutato è la durata del titolo che si acquista. Minore la durata, minore sono i rischi tassi, nel senso che se salissero i tassi, ad esempio turchi in questo caso, la quotazione del titolo scende e quindi c'è il rischio di vanificare il guadagno che si potrebbe avere investendo nella valuta turca. Per quanto riguarda la valuta turca in generale, sì, è una situazione abbastanza interessante, perché la Turchia sta crescendo in maniera abbastanza importante, anche se negli ultimi tempi le crisi politiche hanno avuto degli effetti negativi. Però ora, dopo le elezioni, mi pare che la situazione sia molto più tranquilla, quindi può essere un investimento interessante. Io quello che raccomando è che non si metta una parte rilevante nel portafoglio, certo. Perché bisogna stare attenti alle oscillazioni dei cambi, che spesso sono molto molto elevate. Questo direi che vale un po' per tutte le valute, ma certamente per paesi in condizioni politiche un po' più precarie vale un po' di più, no Drusiani, questa raccomandazione? Assolutamente sì, bisogna stare molto attenti. Quando si investe in valuta bisogna seguire, oltre che l'andamento dei rendimenti dei tassi, anche l'andamento politico, perché è vero che adesso la Turchia sembra un po' meno agitata di quanto lo fosse prima delle elezioni, però non si può mai sapere, perché vediamo che nei paesi di quella zona sono molti movimenti. Bravo. Quindi bisogna avere una buona propensione al rischio, ma soprattutto essere molto informati. Assolutamente. Tenga conto che laddove gli investimenti vengono effettuati su tipologie di titoli un po' rischiosi, bisogna intanto conoscere i mercati, ma anche molto bene, giustamente, come diceva, la geopolitica, cioè ciò che accade in giro per il mondo. Allora, andiamo a valute un pochino più vicine a noi. Il rapporto di cambio fra euro-dollaro. Stamattina lo vedo attestato a 1,2944. Ieri eravamo a 1,2918, quindi stamattina l'euro ha ripreso slancio, ha ripreso decisamente vigore. Però, Nicoletta, senti, questo rapporto di cambio a marzo era a 1,3950. Lo scorso marzo, non mi ricordo male. Quindi l'euro era decisamente molto più forte sul dollaro. Poi ci sono state le iniziative di Mario Draghi, no, Drusiani, che sicuramente hanno pilotato questa discesa della moneta unica europea. Ma secondo lei qual è un buon rapporto di cambio che in questo momento consentirebbe all'economia europea di riprendere un po' più di vigore, soprattutto all'Italia, perché poi sappiamo che abbiamo una situazione a macchia d'olio, come si suol dire. Io credo che un rapporto di cambio ricordate giusto, nel senso che potrebbe rispecchiare i valori fondamentali dell'oltreoceano e di area euro, potrebbe essere attorno a 1,10, 1,15, ma va considerato che il rapporto di cambio col dollaro è quasi sempre, non dico non libero, però è guidato dalle attenzioni che gli Stati Uniti, in particolare le autorità statunitensi, mantengono nel confronto della loro moneta, perché hanno tutto l'interesse a mantenere un valore basso, perché in questa maniera diventano loro esportatori e quindi concorrenti degli altri paesi del mondo. Io ricordo sempre questo proposito, che accadde negli anni 80, quando il Giappone pareva che diventasse la forza più importante nel mondo, quindi che potesse scavalcare la potenza economica americana, e lo yen fu portato a livelli talmente elevati dalle banche, grosse banche internazionali, che per 20 anni il Giappone è rimasto in recessione. Ed è quello che è stato tentato nei confronti dell'area euro, perché se si considera che l'area euro è nettamente divisa tra paesi virtuosi e paesi non virtuosi, c'è una politica comune stenta ad arrivare, poi la crescita è molto molto modesta, e l'euro, come giustamente diceva poco fa, è arrivato a 1,39, quindi non è che ce lo si spieghi se non con interventi di carattere esterno. Monetario molto forte. Tra l'altro, a proposito di interventi monetari, questa è la settimana della Banca Centrale Americana. Nicoletta, quindi ti ricordi, abbiamo parlato tante volte anche di donne di una certa importanza. Un certo profilo. Esatto, quindi della signora Janet Yellen. No? Allora, qua adesso dobbiamo anche introdurre un po' dei termini di difficile comprensione, però il nostro compito è anche quello di cercare di dare informazioni per istruire un pochino le persone su questi temi che ci sembrano sempre lontani da noi, poi vediamo che arrivano, sono a casa nostra. E esatto. Anche perché, come sottolineano spesso i tuoi esperti, abbiamo una buona propensione al risparmio ma una scarsa cultura finanziaria. Brava. Quindi cuore denari. Allora è qui per questo, per spiegarvi per esempio anche il fatto che Janet Yellen dovrebbe continuare, Drusiani, il tapering, no? Che è questa operazione di acquisti mensili di titoli di Stato americano, di bond, di strumenti cartolarizzati. Adesso non mi ricordo a quale livello sia arrivato appunto l'acquisto mensile, ma dovrebbe essere ridotto di altri 10 miliardi di dollari. Questo dovrebbe sottolineare che negli Stati Uniti continua il miglioramento del mercato del lavoro, anche la crescita sta sicuramente andando molto meglio rispetto ad altre aree del paese, tanto che entro qualche mese la Banca Centrale Americana comincerà ad aumentare i tassi di interesse, totalmente al contrario di quello che è necessario fare invece in Europa. Con che impatto, secondo lei, complessivo sul mercato valutario? Poi magari faremo anche qualche esempio di strumenti di investimento individuali. Io credo che l'aspetto più preoccupante di questa situazione, preoccupante tra virgolette, sia la possibilità del contagio tra l'andamento dei tassi americani e i tassi di area euro. In teoria, e lei lo ha sottolineato poco fa, gli Stati Uniti potrebbero alzare i tassi di interesse già entro la metà del prossimo anno, mentre prima, fino a poco tempo fa, si pensava addirittura fino a tutto 2015 e anche inizio 2016 non li avrebbero alzati. In realtà, visto che la situazione sta migliorando dal punto di vista economico, è probabile che rialzino. Cosa succede? Succede che i rendimenti di mercato tendono ad anticipare questo rialzo, quindi pian piano si stanno aumentando. In area euro dovrebbe avvenire esattamente l'opposto, viste le decisioni che sono state prese dal direttivo della Banca Centrale Europea, però i mercati difficilmente, soprattutto quelli occidentali, visto che sono abbastanza contigui, difficilmente fanno sì che l'andamento di una parte dell'oltreoceano o di qua dall'oceano, se salgono i tassi da una parte difficilmente scenderanno dall'altra. Quindi c'è il rischio molto negativo che i rendimenti di mercato di area euro probabilmente resteranno fermi per un po', ma se negli Stati Uniti dovessero salire in maniera più rapida di quanto ci si aspetta, poi l'effetto potrebbe arrivare anche da noi, che è un effetto assolutamente non voluto. Certo, speriamo che la signora Yellen insomma non provochi un ulteriore fermento sui mercati e che piloti questo movimento sui tassi in maniera molto consapevole, come del resto ha fatto fino a questo momento. Cuore e denari. E vado su, vado giù, giù, giù, e vado su, giù, giù, e vado giù, giù. C'è fermento nel mercato valutario, ne stiamo parlando oggi a Cuore e Denari, e quindi se avete un portafoglio investito che considera anche i movimenti valutari, se avete notato delle oscillazioni, 800 24 00 24, restate con noi e continuate a chiamarci, e nella seconda parte del programma parleremo delle influenze che il nostro stile di vita ha sulla flora intestinale, che è un vero e proprio organo formato da batteri, virus e miceti, che può arrivare a pesare, pensate, sino a un chilo. Bene, i ricercatori lo tengono sott'occhio perché ha un ruolo importante per il nostro benessere e nella genesi di malattie digestive ed extradigestive, dal diabete all'obesità, dalla colite ulcerosa ai problemi dell'umore. Un organo che sta facendo parlare molto di sé e che promette di rivoluzionare la medicina moderna. Restate, chiamate 800 24 00 24. Allora, dalla Russia, naturalmente adesso andiamo in Scozia. Lo sai che io una volta avevo questa suoneria sul telefono, me ne sono ricordata adesso. Molto bello l'inno scozzese, ti bello, piace? Molto. Analizziamo un po' lo scenario della sterlina, naturalmente importante non solo per chi investe, ma anche per chi magari ha in mente un viaggio breve a Londra. Ci avevi pensato? No. Che bisogna tenere sotto osservazione il rapporto di cambio. Io nel che tu senso sai, che tu stai, perché tu hai quasi le valigie pronte. Io ho quasi le valigie pronte, non per andare a Londra, da un'altra parte. Sto rapporto di cambio tra l'euro e il dollaro mi innervosisce. Mi innervosisce. Comunque, detto questo, Angelo Drusiani, nostro esperto di questa mattina di mercato valutario ed obbligazionario, secondo lei questo referendum sposterà qualcosa? Io credo che alla fine vinceranno gli unionisti, perché mi sembra che siano delle pressioni molto forti anche da parte della regina Elisabetta, cui i sudditi inglesi sono molto sensibili. Indubbiamente la situazione fino ad oggi ha mostrato una molto, molto nervosismo sul mercato, perché sicuramente se dovesse uscire una parte così importante del Regno Unito avrebbe degli effetti dirompenti sulla sterlina stessa, quindi da questo punto di vista non c'è dubbio che i mercati siano preoccupati. Certo. Però insomma, da quella parte dell'Europa sempre il disappunto deve essere manifestato con grande chiarezza, come anche sta dimostrando questo referendum sulla Scozia. Peraltro non abbiamo indicato il rapporto di cambio fra euro e sterlina, che è a 0,79, il rapporto fra sterlina e dollaro è 1,6234, sono valori sfavorevoli credo alla sterlina, no? Che si sta un po' deprezzando sulle altre valute, Drusiani? Sì, si è deprezzata, non moltissimo, però si è deprezzata anche perché a favore della sterlina c'è l'andamento molto favorevole dell'economia, che consente alla moneta del Regno Unito di rimanere su livelli abbastanza importanti. È vero che anche così come negli Stati Uniti la sterlina ha goduto dell'aiuto della banca centrale in maniera molto imponente, ciò che purtroppo non è venuto da noi. Quindi questo teoricamente però rende conveniente farsi un viaggetto a Londra? In questa fase qui sicuramente ecco. Sì, forse un po' meno. Per chi se lo volesse fare. Allora, 800 24 00 24. Andiamo a Milano perché sì, c'è Angela che ci aspetta. Buongiorno, la prima donna di Cuore Denari di oggi. Benvenuta. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, io volevo fare una domanda. Però parto un po' alla larga. Noi sì, abbiamo un consulente finanziario che gestisce i soldi dei miei genitori. Ora i miei genitori sono un po' anziani, li aiuto anch'io in questo. E il nostro consulente finanziario, oltre a consigliarmi i soliti fondi assicurazione, di diritto lussemburghese, i fondi di fondi obbligazionari, che poi alla fine dei 5 anni non si sa se il capitale è tutto garantito, insomma. Allora io mi sono impuntata e quest'anno ho scelto per l'ultimo investimento di una cifra di su 100.000 euro, ho detto no, mi dispiace, vado con i certificati di deposito così so quanto ti do e alla fine so quanto prendo. Sì. Però ho sempre i patemi d'animo perché insomma pensare io le cose per gli altri è sempre... Una bella responsabilità. Ecco, è sempre una bella responsabilità. Che durata ha questo certificato che ha sottoscritto Angela? Sì, un anno. Brevissimo, breve termine, diciamo. A non breve brevissimo. Termine, perché poi alla fine non riesci mai ad avere, a capire quanto prendi, quanto... Lo so. Questo vale per tutti, Angela, ci sono molto spesso, e questo è un grosso problema, delle commissioni non trasparenti su tutte le soluzioni di investimento, questo magari ecco il bot forse è la cosa più chiara come un conto di deposito, già se andiamo sullo strumento scelto da lei abbiamo degli elementi che non si capiscono, però insomma lei prima di firmare deve stressare il suo consulente fino a quando proprio non le spiega tutto l'ABC, no Nicoletta, che ne pensi? Lo chiude nessuno, esatto, nessuno ci corre dietro per mettere le firme, d'altronde. Detto questo, adesso ci siamo un pochino allontanati dalle valute, però sono certa che Angelo Drusiani saprà dare un supporto adeguato alla nostra ascoltatrice. Peraltro ultimamente in molti hanno scelto il certificato di deposito per piazzare in alternativa magari al conto di deposito il proprio denaro, scegliendolo proprio come strumento di breve termine. Drusiani. Io credo che nell'ambito di un portafoglio la diversificazione si rappresenti comunque la guida assolutamente importante e in questo senso si possono emettere strumenti di vario tipo, al di là dei titoli di Stato, delle obbligazioni societarie, dei fondi di investimento, anche i certificati di deposito possono occupare un ruolo abbastanza importante, addirittura anche gli stessi depositi in conto corrente, quelli che hanno vincoli di 6-12 mesi che offrono un rendimento superiore a quello che si prenderebbe se si lasciasse in conto corrente. Quindi sicuramente è una scelta che va seguita. Per quanto riguarda la poca trasparenza a cui lei faceva riferimento, cui anche l'ascoltatrice faceva riferimento, sì, vi è la possibilità, stressando, come dicevate voi, il consulente di avere le indicazioni che siano le più corrette possibili, perché indubbiamente è opportuno che chi fa degli investimenti sappia quello che sta facendo. Oltretutto ricordiamoci anche di farci spiegare bene la tassazione sui prodotti di risparmio. C'è la nuova tassazione sulle rendite finanziarie, per chi fa compravendita di titoli azionari c'è anche la Tobin Tax italiana, tante cose che non si leggono sempre sui giornali e poi ce le troviamo lì. Si ascoltano a cuore denari. Ecco, esatto. E noi faremo una puntata anche sullo stress dei consulenti finanziari, perché insomma anche tu loro... continui a dire stressateli. Esatto. Esatto. Faremo una puntata tutta dedicata a loro. Li ho incontrati questo weekend, ho moderato un convegno con loro ed effettivamente, insomma, chiaramente il nervosismo anche del risparmiatore con tutto quello che è successo in questi anni nell'economia si trasferisce anche su di loro, ma questo mi sembra inevitabile. Dottor Drusiani, c'è un messaggio. Sandro da Verona chiede un suo parere. Lui sta pensando di investire su un eventuale ulteriore deprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro e vuole sapere il suo parere. Lei ha detto, insomma, io l'euro sul dollaro lo vedrei bene a 1,10-1,15. Sandro ha anche, come dire, un obiettivo ragionevole, tutto sommato. Io credo che entro la fine dell'anno, se non ci saranno degli interventi da parte degli Stati Uniti, ma non credo in questo momento perché hanno anche loro altri problemi, soprattutto quelli legati alla situazione militare, e potremmo vedere il rapporto tra euro e dollaro attorno a 1,20-1,25, quindi di spazio per la discesa ce n'è ancora. E di conseguenza dedicare, come si ragionava prima, una quota parte del proprio patrimonio nell'investimento in valuta estera, in particolare nel dollaro, secondo me rappresenta una strategia. Ecco, quindi allora, tanto per dare un'informazione concreta, accogliendo proprio il messaggio di Sandro, se una persona vuole investire puntando sull'ulteriore deprezzamento dell'euro, con quale prodotto di investimento può farlo? Io lo farei o con dei fondi di investimento che investano su titoli con durata breve americani, oppure addirittura con un T-bond, cioè un titolo di Stato americano con durata massima un anno, dopo di cui se da qui a fine anno il valore la valuta americana si appresta, lo si vende senza alcun tipo di problema. Nicoletta, dagli Stati Uniti ti porto un T-bond. Mi piace. Sei contenta? Molto. Ti porto un bel certificato, me lo faccio sottoscrivere al New York Stock Exchange magari. Allora, un'ultima domanda con Drusiani, perché mi dà l'opportunità anche di affrontare un tema molto ricercato che è sempre un po' quello della difesa del portafoglio, no? Magari un commento veloce, Drusiani. Ieri leggevo su qualche giornale alcuni commenti sul fatto che l'aspetto più interessante dell'andamento del biglietto verde, cioè del dollaro, che sta recuperando terreno non solo sull'euro, ma anche su alcune divise che sono tradizionalmente considerate difensive. Il dollaro di Singapore, pensate mai voi al dollaro di Singapore, mai. La corona norvegese, magari il franco svizzero, ci si pensa un po' di più. È davvero così? Sì, perché sicuramente l'economia americana è l'economia che si muove con maggiore rapidità, quindi siccome le prospettive di crescita entro fine anno spingono addirittura, secondo alcuni analisti, ad una crescita del prodotto lordo americano del 3%, è evidente che ci si aspetta una ricerca da parte degli investitori di strumenti americani, quindi più strumenti americani vengono comprati più sale il valore del dollaro, quindi è un'ipotesi che sta in piedi. E allora, tra l'altro, magari solamente una definizione su che cos'è una valuta difensiva? Valute difensive sono quelle valute che teoricamente rispetto alle altre si muovono molto molto poco, siccome hanno degli ottimi valori fondamentali. Un andamento dell'inflazione abbastanza contenuto, di solito rimangono abbastanza stabili, però ripeto, il mercato valutario è un mercato che si presta a delle oscillazioni. Che per definizione non è tanto difensivo, insomma. Difensivo c'è molto poco. Ecco, allora abbiamo terminato questa parte dedicata al fermento valutario, volevo solamente leggere a Drusiani il messaggio dell'ascoltatore che scrive, l'hai visto? Sì. Che dice che voce sexy ha il vostro consulente di oggi. Oh. D'altronde noi li scegliamo così. Noi li scegliamo proprio in base alla voce. Di solito sono messaggi che arrivano quando le esperte sono donne. E invece devo dire che oggi, quindi, dottor Drusiani va a casa con questo bel complimento. No, Drusiani è proprio l'emblema della forma e della sostanza, tutte e due messe insieme. Quindi, ma non si monti la testa. Ecco, no, tranquillo. Le girerò alcune domande in privato di alcuni ascoltatori. Flavio vuole sapere che cosa pensiamo di investimenti in dollari neozelandesi, altri che appunto affrontano altre economie. Grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Buona giornata. Cuore e denari. No, le mani addosso, no, porca miseria. So anche le 4 di mattina. Ma per chi mi ha preso per ostaggio? E poi ti ha autorizzato a toccare i miei fogli, questi suoi fogli del libro di Hendrix. E maledetto il giorno che t'ho incontrato. Ma benedetto il giorno in cui Barry Marshall e Robin Warren l'hanno scoperto. Parliamo dell'Helicobacter pylori, il batterio responsabile dell'ulcera gastrica e della gastrite. La sua scoperta ha rivoluzionato il modo di curare i problemi di stomaco. Prima si pensava che la gastrite e l'ulcera fossero unicamente causate dallo stress, e questo faceva sì che i pazienti con questi disturbi fossero curati a vita con dei farmaci. Adesso, prima di prescrivere farmaci, si dà la caccia al batterio, ed è quello che faremo oggi in compagnia del professor Antonio Gasbarrini, ordinario di gastroenterologia all'Università Cattolica e direttore della divisione di medicina interna e gastroenterologia del Policlinico Gemelli, che è tornato finalmente a trovarci. Bene. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Professore, è un batterio che continua a far parlare di sé, perché lei e il suo gruppo di ricerca avete infatti individuato una possibile relazione tra Helicobacter pylori e infarto. Il che significa, professore, che questo batterio non si limita solo a procurare danni al nostro stomaco, ma un po' come dite voi a Roma, si allarga, arriva al cuore. Ma com'è possibile? L'Helicobacter pylori, come tanti degli altri batteri che popolano il nostro apparato digerente, il cosiddetto microbiota intestinale, possono essere responsabili anche di malattie che noi chiamiamo extradigestive. Perché? Nel caso dell'Helicobacter, alcuni anticorpi che l'organismo crea per attaccare questo Helicobacter pylori e solo alcune specie di esso, diciamo quelle un po' più aggressive, possono poi cross-reagire, che è un meccanismo per dire, possono andare anche a attaccare le arterie dei vasi e quindi in qualche modo essere responsabile dell'aterosclerosi e quindi delle sue conseguenze come l'infarto. Professore, ma questo significa che chi soffre di una malattia cardiovascolare dovrebbe comunque, anche in assenza di sintomi evidenti e ben manifesti, fare una ricerca dell'Helicobacter? Diciamo che tutti quelli che hanno avuto un infarto del miocardio o un evento ischemico acuto devono cercare qualsiasi causa di infiammazione nell'organismo e l'Helicobacter pylori, soprattutto alcuni ceppi, questi ceppi un po' cattivi che si chiamano citotossici, si possono cercare semplicemente come un esame del sangue e se presenti vanno assolutamente eradicati. C'è da dire però, Deborah, che non tutti i batteri ci danno del filo da torcere. Per fortuna, ce n'è qualcuno buono, buonino. Dei batteri che lavorano per noi, amici della nostra salute, i probiotici, lo dice proprio il nome stesso, li assumiamo nello yogurt, nei latti fermentati, sotto forma di integratori, molti di noi li consumano per l'equilibrio e il benessere della flora intestinale. Ne parleremo tra poco insieme al professor Gasbarrini, che alla flora intestinale ha dedicato anni e anni di ricerche. D'altronde si tratta, professore, di un vero e proprio organo a cui siamo legati a doppio filo, nel bene e nel male, ci protegge ma se si altera ci danneggia. Parleremo anche della flora intestinale, che anche come l'Helicobacter, e l'Helicobacter fa parte della flora intestinale, ha rivoluzionato un po' e rivoluzionerà l'approccio medico nei confronti del clinico, nei confronti di molte patologie. Professor Gasbarrini, è così? Sì, assolutamente, è un vero e proprio organo, si chiama il sesto organo dell'apparato digerente, pesa oltre un chilo, è composto da batteri, da virus, da miceti e ha delle potentissime attività metaboliche. Pensate solo che il microbiota intestinale possiede oltre 3 milioni di geni, il nostro organismo ne possiede 30.000, quindi solamente un'interazione tra l'uomo e questa comunità batterica, che è un vero e proprio organo, ci permette di vivere e di vivere bene. Una comunità batterica tra l'altro molto antica. Assolutamente, calcolate che l'uomo non è compatibile la vita umana senza questa simbiosi con questi batteri. Fin dalla primissimo, dalla comparsa dell'uomo, l'intestino è stato popolato e questi batteri chiaramente hanno trovato un posto stupendo, no? Perché un posto dove arriva cibo, dove c'è dell'acqua, dove gli amo tutto quanto, però l'organismo per accettarlo vuole qualcosa in cambio e quello che vuole in cambio è proprio questo meccanismo di simbiosi o di mutualismo, cioè noi gli diamo il cibo e il posto dove stare, loro devono darci in cambio un sacco di attività metaboliche. Le ricordiamo, professore? Allora, le più importanti sono l'attività immunologica. Quindi il nostro intestino tenue, cioè questi 6 metri centrali, no, dell'intestino, sono pieni di cellule immunologiche e il microbiota intestinale educa continuamente il sistema immunitario, quindi ha un ruolo importantissimo nel controllare tutte le malattie immunomediate e di tenere attivo il sistema immune. Nel colon invece esiste un secondo cervello, un secondo microbiota che ha una potentissima attività metabolica. Calcolate che è talmente importante che adesso si parla di un sistema di controllo colon, cioè batteri intestinali, fegato, tessuto adiposo, pancreas e cervello, e questi organi insieme possono addirittura decidere cosa verrà assorbito di quello che noi mangiamo. È una squadra che decide un po' quello che noi assorbiamo e quindi potrebbe spiegare anche perché ci sono delle persone che accumulano più grasso e altre invece restano magre nonostante la dieta non restrittiva. Calcolate che il microbiota intestinale ha un ruolo importantissimo nello sviluppo dell'obesità, del diabete, della sua insulinoresistenza e addirittura il trapianto di microbiota può trasmettere questo fenotipo, trasmettere queste malattie. Quindi cosa vuol dire in parole povere? Che forse i geni di una persona hanno un'importanza relativa, quello che è più importante è l'epigenetica, cioè come l'ambiente ha influenzato il microbiota e come questo poi è importante nello sviluppo delle malattie. Ho fatto fare al professor Gasbarrini un sommario di tutti i temi che affronteremo nella seconda parte della trasmissione, proprio partendo dall'Helicobacter, che è un tema che interessa anche Alessio, che ci chiama da Firenze. Buongiorno Alessio. Che ce l'ha talmente affezionato, sì. Alessio, no? Che insomma ve lo siete voluti buonasera. Tutti in famiglia. Sì, buongiorno. Buongiorno Alessio. Buongiorno. Sì, cioè in famiglia ce l'abbiamo tutti. Tutti. Tutti. Così non bisticciate. No, nessuno, tutti dalla parte della mia mamma però. Perciò i fratelli della mia mamma, i cugini da parte della mia mamma, io e mio fratello, tutti ci abbiamo avuto le Helicobacter pylori. Io per primo nel 1997 sono stato il primo a cui è stato diagnosticato le Helicobacter pylori, che soffrivo di questo forte mal di stomaco continuo, poi il medico mi fece fare gli esami per le foriche che volevo battere pilori. E poi tutti gli altri componenti della sua famiglia si sono sottoposti al test? Sì, sì, tutti si sono messi, hanno fatto il test e qualcuno aspettava che cominciasse a soffrire il mal di stomaco, questo dolore continuo che prendeva la bocca dello stomaco. E poi tutti fortunatamente ne abbiamo tirato fuori le gambe da questa cosa qui. L'unica che purtroppo ci ha rimesso le penne è stata la mia mamma, Perché praticamente lei è morta nel 92 con un tumore allo stomaco. Certo. Perché lei veramente soffriva sempre di stomaco. Molto probabilmente era l'Helicobacter pylori che ancora non era stato scoperto. E quindi ha provocato una neoplasia. Ulcere, malux, però non viveva per elemento con questo mal di stomaco. Professor Gasbarrini, Alessio ci ha raccontato una storia. Ha raccontato la storia dell'Helicobacter, è molto diffuso. Alessio si è sottoposto al test e anche poi anche i componenti della sua famiglia hanno fatto una ricerca e ha raccontato anche del caso della sua mamma, un batterio che può essere scovato ed eradicato, ma che un tempo, quando non veniva individuato, poteva fare danni seri. Cuore e denari. E bentornati, non andiamo a caccia di fantasmi, ma di batteri, virus e micetti. Siamo circondati e per fortuna, e anche per fortuna in linea con noi abbiamo un grandissimo esperto, il professor Antonio Gasbarrini, che resterà con noi sino al termine di questa puntata. Professore, torniamo al batterio da Nobel. L'infezione da Helicobacter pylori, lo abbiamo detto, un'infezione frequente nel mondo. In Occidente il problema riguarda circa il 30-40% delle persone e questa frequenza aumenta con l'età. Una volta però che questo piccolo batterio, che ha forma di elica, si annida nel piloro, che è la parte bassa dello stomaco, può provocare un'infiammazione cronica che non sempre dà sintomi e segni clinici. Professor Gasbarrini, è così? Sì, diciamo che il batterio è talmente frequente, lei come ha detto 30-40% mondo occidentale, calcoli che in paesi in via di sviluppo raggiunge il 70-80% della popolazione, c'è quasi da dire che 2 persone su 3 sono infette da questo batterio e può avere degli effetti tossici. C'è da dire che come sempre quando un'infezione è così frequente deve esserci un senso biologico. Probabilmente per migliaia di anni questo batterio in qualche modo, attivando il sistema immunitario, forse ci ha protetto dalle infezioni. Ora sa, viviamo in un mondo super igienizzato, no? Dove l'acqua è super potabile, quello che mangiamo è tutto perfetto, quindi forse questo batterio attiva troppo il sistema immunitario, no? Poi la vita fortunatamente si è allungata e può diventare quindi patogeno, quindi in alcune persone può determinare prima un'infiammazione dello stomaco, quella che si chiama gastrite, poi un'infiammazione cronica può dare un danneggiamento della mucosa, quindi si perde un po' la superficie dello stomaco, si realizzano tutta una serie di atipie, anomalie e in alcune persone, come ha detto l'ascoltatore di prima, si può sviluppare il cancro dello stomaco. C'è da dire che l'Helicobacter pylori si chiama un carcinogeno di prima classe, cioè è un responsabile diretto dello sviluppo del cancro dello stomaco nelle persone ovviamente predisposte allo sviluppo di questa malattia. 800 24 00 24, se volete saperne di più, se volete parlare anche con noi della flora intestinale, ci sono delle ricerche straordinarie in questo campo e abbiamo il piacere di avere in linea il professor Gasbarrini, che alla flora intestinale, a questo organo straordinario da cui stiamo molto legati nel bene e nel male, ha dedicato anni e anni di ricerche e ci sono dei risultati davvero sorprendenti. Posso chiedere al professor Gasbarrini, adesso non vorrei sintetizzare troppo e anche banalizzare, professore, l'argomento, no? Però mi ha colpito la spiegazione che lei ha dato poco fa relativamente alla diffusione dell'Helicobacter in una maggiore percentuale molto elevata. Può essere che ce lo abbiamo, come dire, anche a nostra insaputa? Potrei avere una gastrite cronica e non saperlo? Sì, assolutamente. Sì. Calcoli però che il termine gastrite cronica in qualche modo vuol dire che c'è un'eccessiva infiammazione nello stomaco, no? Però un pochino di attività immunologica nello stomaco, nel tenue, nel colon, deve esserci, cioè questi batteri, o al di là dell'Helicobacter, ma le migliaia di specie di batteri che popolano il tenue e il colon, hanno proprio tra loro attività quella di stimolare il sistema immunitario, cioè se non avessimo alcuni di questi batteri il sistema immunitario dormirebbe, e questo che cosa vuol dire? Che la volta che poi in un pasto che noi facciamo c'è un patogeno, un batterio quindi pericoloso, il sistema immunitario non sarebbe pronto. Certo. In qualche modo alcuni di questi batteri attivano in maniera corretta, che si dice fisiologica, il sistema immunitario. Nel caso dell'Helicobacter pylori, specie nei suoi ceppi cattivi, quelli aggressivi, l'attivazione è troppo importante, troppo forte. gastrite, e in quel caso si sviluppa una gastrite patologica, cioè patologica vuol dire che dà disturbi, e in quel caso è chiaro che l'helicobacter va tolto, se no può causare ulcera e in alcuni rari casi addirittura cancro dello stomaco. Andiamo a Forte dei Marmi? Magari, adesso sentiamo se Luca ci invita. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ci dica. Buongiorno. Volevo fare una domanda diretta. Io ho 34 anni e ho avuto a 20 anni un'ulcera dovuto all'utilizzo di l'utilizzo di farmaci di uso comune, antinfiammatorie, e alla presenza di l'Helicobacter pylori. Questo è quello che mi è stato detto, sì, all'ospedale. Volevo sapere, ho fatto poi l'eradicazione, mm-hmm, che è riuscita. Volevo sapere se si può riproporre l'Helicobacter pylori e quali sono le indagini più, diciamo, precise per individuarlo, grazie, quello del sangue. Grazie Luca. Professor Gasbarrini, una volta eradicato, torna? Guardi, la domanda è interessantissima, anche perché l'ascoltatore ha detto prima che l'ulcera gli è venuta perché aveva fatto uso di antinfiammatori e poi hanno trovato l'Helicobacter. E questo è un dato fondamentale. L'Helicobacter, il suo danno si somma a quello degli antinfiammatori. Quasi tutti i farmaci antinfiammatori, se presi in dose eccessive e non adeguate, possono dare gastrite e dolore di stomaco, no? Se uno è anche infetto dall'Helicobacter pylori, il rischio aumenta molto. Quindi, ad esempio, una banale indicazione: prima di cominciare una terapia cronica con antinfiammatori bisogna escludere di avere l'Helicobacter pylori nello stomaco. Come si diagnostica? Esistono metodiche diciamo invasive, la gastroscopia permette di fare biopsie, ma il dato bello è che esistono anche delle metodiche cosiddette non invasive. L'Helicobacter pylori si può trovare ad esempio con un metodo banale che è il cosiddetto breath test, quindi nel respiro si prende una compressina che è un marcatore particolare che l'Helicobacter utilizza e si produce nell'aria un gas particolare. Quindi solo con un esame del respiro si può cercare in maniera molto molto molto attendibile la presenza di Helicobacter. L'Helicobacter infine può tornare tecnicamente. Diciamo che noi lo prendiamo generalmente durante il corso della nostra vita da una persona infetta e in qualche modo c'è potenzialmente il rischio di riprenderselo. È basso nel corso della vita, però diciamo che continua a esserci. Quindi una persona eradicata che ricomincia a avere sintomi dopo anni deve ovviamente andarlo a ricercare. Professore, quindi il messaggio è chiaro: prima di prendere tante medicine, antinfiammatori, gastroprotettori, insomma per spegnere lo stomaco in fiammo, per digerire meglio, meglio dare la caccia al batterio. Tra l'altro lei, professore, ha dimostrato che alcuni farmaci, in particolare i gastroprotettori, alterano la flora intestinale, e lei ha anticipato, e le sue ricerche lo dimostrano, se la flora intestinale va in tilt ne risente tutta la salute, perché le alterazioni qualitative e quantitative del microbiota, che è proprio questo sesto organo, sono in grado di scatenare oppure mantenere diverse malattie gastrointestinali e sistemiche, e abbiamo parlato di diabete, di obesità, di colite ulcerose. Insomma, la nostra salute, ancora una volta lo sottolineiamo, è in mano ai batteri, virus e miceti, che ci proteggono ma ci possono anche attaccare. I farmaci possono peggiorare la situazione. Sì, guardi, assolutamente. Io ho un rapporto, le devo dire, da medico un po' conflittuale con i gastroprotettori. È chiaro che sono stati dei farmaci eccezionali perché ci hanno permesso di curare tante malattie dello stomaco, però il mio rapporto conflittuale nasce dal fatto che usano questo termine gastroprotettori. Attenzione, l'acidità gastrica ha delle funzioni importantissime nel digerire quello che noi mangiamo, e bloccarla senza senso, come spesso alcune persone fanno, no? Alcune persone, per permettersi ad esempio di prendere un bicchiere di super alcolico, fumare un sigaro quando hanno dolore e acidità, si prendono il gastroprotettore, ma nella realtà continuano a far danno allo stomaco, cioè l'acido gastrico serve. Per cui voglio dire, e perché, e come, e qual è il legame col microbiota intestinale? L'acido gastrico in parte ci tiene sterile la parte bassa dell'intestino, o meglio ci fa crescere solo i batteri veramente necessari. Se noi blocchiamo l'acido gastrico, alcuni batteri patogeni che ingeriamo col cibo possono andare a colonizzare troppo l'apparato digerente, quindi da hanno quella che si chiama sovraccrescita dei batteri intestinali. Quindi, come tutti i farmaci, anche i gastroprotettori vanno usati con cautela, perché possono bloccare un meccanismo normale dello stomaco. Vanno usati con cautela e per un tempo determinato? Assolutamente sì. Perché assolutamente anche il fattore tempo spesso noi lo trascuriamo. Allora, Diciamo questo, guardi, se uno vuole fare un paragone banale, quando uno prende un antinfiammatorio, no? Lo prende per un tempo limitato, ma questo nome gastroprotettore in qualche modo può essere fuorviante, come dire, è un farmaco che lo protegge, no, lo protegge se è malato, ma se lo prendi e non ne hai bisogno, blocca un importantissimo meccanismo, che è il processo della digestione che comincia nello stomaco. 800 24 0024 Helicobacter e flora intestinale. Professore, è un capitolo molto interessante quello che riguarda la flora intestinale. In parte un po' noi ci siamo abituati, anche grazie alle teorie del secondo cervello, a considerare che intestino e cervello si parlano. Adesso però le conoscenze sulla flora intestinale ci spiegano come funziona questa straordinaria relazione. Tra l'altro, la flora intestinale può avere delle influenze non solo sul nostro umore, ma anche, come anticipava lei, sull'assorbimento degli alimenti, sull'infiammazione in generale, che a proposito viene sempre più riconosciuta come la base di molte malattie, non solo quelle del benessere. Professor Gasbarrini, e quindi la flora intestinale può cambiare davvero la nostra salute? Assolutamente sì, calcolate che ha un ruolo importantissimo in quella che noi chiamiamo la fisiologia, no, dell'assorbimento, cioè vi ho detto che nell'intestino tenue controlla il sistema immunitario, capite questo che cosa voglia dire? Fa tutto un processo di predigestione di quello che noi mangiamo, tantissimi di questi batteri hanno degli enzimi importantissimi e senza di questi enzimi non potremmo del tutto assorbire quello che mangiamo. I batteri colici, che sono quelli nella parte terminale, sono quelli ad esempio che regolano anche il meccanismo dell'assorbimento, come dicevo, e perché così importante ad esempio mangiare le fibre nella dieta? Perché se uno non fa una dieta ricca di frutta e di verdura e prende solo alimenti rapidamente assorbibili, cosa fa? Non nutre il cervello colonico, non nutre i batteri colonici. E i batteri colonici cosa fanno? Dicono al fegato, all'intestino e al cervello: noi non siamo stati nutriti, quindi tutto quello che uno sta mangiando lo deve assorbire. Quindi il concetto è che questi batteri intestinali, che controllano immunità e metabolismo, oltre ad avere tante funzioni di produrre vitamine, di produrre sostanze importantissime per la vita, sono in grado di decidere cosa noi assorbiamo da quello che mangiamo, e questo può veramente spiegare perché alcune persone non riescono a calare nonostante fanno delle diete relativamente ipocaloriche. Calcolate che questo concetto è talmente forte che ad oggi si può proprio pensare a questa rivoluzionaria metodica che nei modelli sperimentali funziona benissimo, nell'uomo ha dimostrato, che si chiama trapianto di microbiota. E per chiudere questa domanda, come diceva lei, ci sono degli studi assolutamente rivoluzionari, perché il microbiota intestinale è in grado addirittura di controllare il comportamento delle persone. Ci sono moltissime malattie che sono pesantemente influenzate dal microbiota, addirittura si possono trasmettere da una specie all'altra, e tra esse malattie anche, diciamo, che possono essere pure più semplici, l'ansia, la depressione, ma anche malattie importanti, ci sono degli studi sull'autismo assolutamente rivoluzionari. Professore, banalizzando il concetto che lei ci ha espresso naturalmente in modo molto chiaro, scientifico e rigoroso, ma riguarda l'assorbimento, questo vuol dire che se io inizio una giornata con una buona colazione e cerco di sfamare i batteri, quindi con una buona quantità di fibre, è probabile che nel corso della giornata il mio microbiota dica al cervello cerca di assorbire un po' meno? No? Mi aiuti un po' a dimagrire, quindi questo è un po' il segreto: una prima colazione ricca di fibre evita che poi il microbiota si lamenti con il cervello dicendo aiuto, sono affamato, prendi quello che puoi. È esattamente così, questo effetto, che è ben conosciuto perché si occupa di nutrizione, si chiama effetto del secondo pasto, cioè la quantità di fibre presenti in un pasto è in grado di influenzare l'assorbimento del pasto successivo, per cui è chiaro che quando uno banalmente dice no, la dieta deve essere ricca di frutta e verdura, che è assolutamente correttissimo, chiaro che devono essere frutta e verdura buone, biologiche, chilometri zero, no? Ma questo è un altro discorso, però la frutta e la verdura sono cruciali, perché tutto quello che noi ingeriamo deve servire anche a nutrire questo cervello colonico, e se lui non viene nutrito, quindi se non ci sono fibre, tutto quello che noi mangiamo nei fasi successivi può essere assorbito, quindi anche il concetto delle calorie, no, può essere un po' rivisto da tutti questi incredibili concetti che stanno uscendo uno dopo l'altro nella letteratura scientifica. Quindi vedi che il microbiota vuole fare una buona colazione, in soldoni torniamo sempre lì. Concediamo prima di saluti, abbiamo un minuto e mezzo prima della chiusura, una domanda a Franco D'Ameda, ma naturalmente dottor Gasbarrini non sfuggirà la domanda se l'Helicobacter si trasferisce anche con il bacio, perché ho visto che è stata una curiosità molto gettonata fra i nostri ascoltatori. Allora Franco, rapido se ce la fa, grazie. Sì, grazie, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo dire questo, io non sapevo che esistesse questo Helicobacter, come si chiama lì? Sì, Helicobacter pylori. Pylori, esatto. Sono andato dal mio medico perché avevo un problema, mi si era tagliucciato un pochettino la lingua e da lì il mio medico mi fa, dice, guarda che ho un reflusso, ma reflusso io dovrei avere anche qualche problema, anche in digestione, eccetera. No, io mangiavo tutto, non avevo problemi. E gastroscopia, viene fuori che avevo appunto l'Helicobacter, poi mi è venuta fuori l'ernia iatale, l'anello lisciazzi, e insomma eccetera, quando eccetera. Uno inizia tutto, certo. Ecco. Il breath test l'ho fatto, è stato eliminato, adesso ho fatto ancora la gastroscopia, sto aspettando l'esito perché l'ho fatto 10 giorni fa. Venga la domanda, caro Franco. La domanda è questa, io non ho problemi diciamo di digestione perché digerisco tutto, come mai c'è questi effetti diciamo che ho trovato con questi esami eccetera eccetera? Allora, grazie professore, rapidamente prima della chiusura. Rispondere, ma il problema è questo, cioè per me è un errore di fondo in tutto questo, cioè l'Helicobacter pylori non è responsabile di tutte le patologie dell'apparato digerente. Se una persona ha un reflusso, ha un'ernia iatale, e quell'Helicobacter non c'entra nulla, l'Helicobacter è responsabile dell'infiammazione dello stomaco e quindi non può essere responsabile di un'ernia. Bisogna cercare, come sempre, e non si può pensare che uno determini tutte le malattie, è uno dei componenti, è chiaro che andrà studiato, come nel caso della ascoltatore, quali sono le motivazioni dell'ernia, se è causata da un'alimentazione. Insomma, non è sempre colpa dell'Helicobacter, no, povero Helicobacter. Dai. Professor Gasbarrini, complimenti per le sue ricerche, grazie per essere stato con noi. Arrivederci, grazie a voi. E naturalmente a voi tutti, grazie, a domani, grazie a Marco Lombardo, Laura Vanossi, Carmelo Lauricella e buona giornata Nicoletta. Anche a te, buona giornata. E denari.